Vabbè, tu sei. Oh, Giulio, ciao, no, Franco, so. Ho messo un po' di olio nella ventola dell'apparecchio. Sembra che sia più silenzioso, allora, ho messo un po' di WD-40. Avanti, Giulio, buonasera, come va? Ciao, ciao, Franco, va bene, va bene. Per cui, non c'è problema. No, non mi sembra che si sente. Appena, ma proprio niente. No, io che avevo messo una resistenza per abbassare i giri della ventola e avevo migliorato moltissimo in quanto al rumore. Ma qua adesso ci siete solo, diciamo, lo spostamento d'aria, dal movimento d'aria che fa la ventola, naturalmente. Però mi sembra che sia più silenziosa. Prima avevo forse qualche vibrazione in più. Ho messo sotto sopra, ho visto che si vedeva, diciamo, il cuscinetto della ventola, e gliel'ho messo da parte, solo da una parte, la parte di sotto l'ho messa, l'ho lasciato girare un po', ma finché assorbisse un po', sembra che vada meglio, dai. Come segnale, sempre uguale? 9 più 15, sì, no, cioè 9 più 10, non 9 più 15, 9 più 10, no, altre volte mi ci è arrivato anche 9 più 15, per cui oggi un pochino meno, ma è un segnalone comunque, va benissimo. Stavo dicendo, io stesso ce l'avevo questo problema della ventola, ho messo una resistenza nell'alimentatore, dove nel filo che arriva lì alla ventola, e l'ha abbassato di giri e va bene lo stesso, e dunque ha abbassato anche la rumorosità. Poi quando mi dà proprio fastidio, sai cosa faccio? Il coperchio di sopra l'ho tenuto senza servizi, quando devo parlare lo tiro su, e dunque non essendoci la, diciamo, la risonanza del coperchio in quella di una specie di griglia che c'è dove prende l'aria, no? E dunque non sento quasi niente, nemmeno io. Qui c'è la parte, diciamo, la parte inferiore al vento, la parte bassa, quindi anche rimane un po' sorda anche per quello, però perché di sotto non si può togliere perché è tutto un blocco, è attaccato tutto lì, ho provato a smontarla ma è tutto un blocco, ci sono dei bulloncini dei dadi da 10 o da 8, se non voglio sbagliare, e quindi perché la volevo smontare del tutto, no? Per pulirlo anche la parte inferiore, poi ho detto va, lasciamola così, dai, visto che ho risolto abbastanza bene così dall'esterno, ho rimesso il tappo di sopra, l'ho spolverata, la polvere per i dissipatori, ma è abbastanza nuovo, dai. Ok, sì, allora io gli do una soffiata sempre, tiro fuori il coperchio, le do una soffiatina, magari col pennellino leggero all'interno del circuito, le do una passatina per togliere, perché come aspira, accumula tutta la polvere, se la tira dentro, la tira, magari anche se è dentro il tavolino che è tutto a posto, tutto pulito, però col passare dei giorni si sa la polvere la tira a sé, questa specie di ventola, per cui si sporca dentro, ecco, un po' che parole. Sì, anche questa, non era tanto mica l'avevo pulita, però nell'aria a tetto c'è un sacco di pulviscolo che noi non lo vediamo, ma come dici tu, da sotto aspira, io uso invece un aspirapolvere che ha un bocchettone con delle setole molto lunghe, addirittura le puoi anche regolare, non so se conosci il folletto, da aspirapolvere tedesco. Quello con le setole più lunghe possibile, in modo che non possa muovere i componenti, non possa danneggiare i componenti, e aspira contemporaneamente, e praticamente è ritornato a nuovo. Sì, beh certo, dentro è nuovo, però è un problema, perché l'unica soluzione sarebbe l'alimentatore di quelli tradizionali con un trasformatore a lamelle e basta, questo fatto della ventola, solo che quelle altre scaldano. Ah, in questo periodo farebbe comodo anche che scaldasse, perché manda un po' di calore. Sì, beh, se voglio caldo accendo il valvolare qua, a voglia, posso cucinarsi anche la fetta del cavallo. Adesso le valvole scaldano molto, indubbiamente, cioè scaldano quello che devono scaldare, pure arrivato a una certa temperatura non è che vanno più avanti, raggiungono una certa temperatura e rimangono costante e basta, non è che continuano sempre a scaldare sino all'infinito, no, assolutamente. Così sono poi anche per i trasformatori, questa cosa. Scaldano, però poi arrivano all'apice del calore che devono raggiungere e lì si stabilizzano con la temperatura, non è che continua. E qua se no si brucierebbero, no? Infatti molti mettono ventole qua sopra, bisogna stare attenti con il raffreddamento delle valvole, perché devono lavorare a una certa temperatura, senza esagerare, come dici tu, però penso che le basi la reazione che loro hanno, il ricambio d'aria che hanno con tutte queste fessure. Comunque resisti a malapena la mano sopra, adesso non so quanti gradi siano, penso una 50-60 gradi li raggiungano. Indubbiamente le valvole sono elementi che scaldano molto e questo non si discute, con la valvola non ce la fai a tenerla la mano sopra, assolutamente no, ma nemmeno nel dissipatore, una volta che incomincia a scaldare anche il dissipatore, intanto vabbè, lo sappiamo benissimo che è costruito in base a quello che serve il dissipatore, per cui è detto bene, quando raggiunge una certa temperatura magari a metterci la mano sopra non è consigliabile, questo è vero. No, perlomeno, non so se sia un problema di questo apparecchio, di questo GTX, scusa che mi stanno un attimino chiamando in verticale. Prego. Mia moglie mi voleva tentare con delle cose dolci, ma io se ne riesco evito, dai, a fare cioccolata calda, no? passo. Io tutti i giorni mancabilmente mangio sempre il gelato, dopo pranzo mangio sempre il gelato, per cui... non è detto che uno si deve privare di tutto, assolutamente. La linea, è chiaro che devi cercare di limitarsi, se uno può pesare 150 kg è chiaro che non deve fare questo tipo di alimentazione, è ovvio, ma significa rimanere nel peso che io più o meno, vabbè tu sei molto più magro sicuramente, io ho preso 83 kg. Per cui va bene, c'è anche l'età, che quello conta molto. No, io sono quasi 20 kg meno, ma ripeto, è una cosa familiare, che mio padre ha 90 anni e pesa come me, sui 65, non pesa tanto, anche lui un peso più, ma... Vabbè, è vero, vabbè, anch'io, prima quando ero più giovane già pesavo poco. Addirittura 57 kg quando praticavo lo sport, ma sto parlando di 60 anni fa, per cui è tutto da lasciar perdere. Poi adesso questi due anni di pandemia, qualche chilo in più me lo sono preso, se no di solito sono sempre intorno agli 80, 78-80, 78-80, però diciamo che in questo periodo, col fatto che non esco mai, esco solo in caso di strettissima necessità, e allora ho accumulato un po'. Vabbè, va bene comunque, non c'è problema. L'importante è quello, se ci lasci un po' di salute, poi ognuno, ripeto, no, ha il suo peso forma ideale, poi non so quanto sia alto tu. No, sono basso, 1,65 m, non sono alto. No, io qualcosa in più, dai, forse una decina di centimetri in più. No, ripeto, il mio peso è stato, anche io da ragazzo, sui 57-60 kg, anch'io adesso qualche chiletto in più, ma poca roba. Se dovessi mettermi l'abito del matrimonio di 30 anni fa, mi dà ancora, tranquillamente. Certo, quello sì. Ma diciamo che per costituzione sono anche un po' grosso di io, come ossatura, dai, diciamo. Ma per il resto niente di particolare. Non è che ho un po' più grasso, sì, un pochino di pancetta mi è uscita in questo tuo periodo, ma niente di più, una cosa proprio minima, proprio così, dai. Quello è il benessere, come ti dici. Quella è la colpa, io la do a mia moglie con tutti i pranzi che mi prepara, per cui la colpa è sua, non è mia. Non vorrei che me la prendo io la colpa, vuole vedere. Subito, mi stava tentando, mi voleva tentare, ma perché è lì con l'ozona, quindi vorrebbe più che altro un complice, di una compagnia vorrebbe. verità, io la mattina prima facevo la colazione, magari uscivo la mattina, questo risale 2 anni fa, prima del cupo, e incontravo gli amici e andavo al bar, facevo colazione al bar, un cappuccino e una pasta, poi magari verso le 11 un panino imbottito, 11, 11 e mezza così, un panino imbottito, quel negozio che c'è via Pascoli, all'angolo di via Nurra. C'è uno che fa i panini con gli affettati eccetera, e andavamo lì quasi tutti i giorni, c'era anche il panino oltre alla colazione della mattina. Invece adesso che non sto più uscendo la mattina, allora la faccio a casa, mezzo bicchiere di latte, niente di più, alcuni biscotti dentro, così e basta, se tira a campare. Qualche volta, ma veramente qualche volta, ci metto un caffè in mezzo e faccio il cappuccino, se no di solito prendo latte bianco. Sì, sì, no, anche io a volte quando si esce, in base anche alla zona dove si lavora, ci fermiamo un attimino, una colazione la facciamo sempre, una pasta, il caffè lo sto evitando adesso, sto bene, una pasta, un bicchiere d'acqua e basta, giusto per avere un po' di energia, diciamo, in mattinata. Sono anche fino a qualche anno fa un bel panino, una bella focaccia, qualche volta anche più di una, la facevo fuori verso le 9, addirittura verso le 9 di mattina, gli davo, come si dice, gli davo mattana. No, io, vabbè, prima quando lavoravo, allora era il discorso, era diverso, arrivavo presto lì, 8:30 massimo ero già in falegnameria, però dopo che sono andato in pensione, allora arrivavo lì verso le 9:30, 10, arrivavo, trovavo qualche amico sempre, andavo lì a Moccador che c'è in via Pascoli, angolo via Castelleggia, e cappuccino e pasta, 4 chiacchiere, magari ci mettevamo lì a tavolino seduti a scambiare 4 chiacchiere, tante volte incontravo anche a Natalino, incontravo molto spesso a Natalino, incontravo lì, e poi verso le 11, dopo aver fatto 2 passi, ci usciva anche il panino, 11, 11 e mezzo massimo, ci usciva anche il panino con dell'affettato eccetera, e si tirava a campare, e poi il pranzo all'1:30 di solito, come solitamente noi pranziamo a quell'ora lì. Ecco, poi quando lavori bruci un po' più di energie, adesso invece bisogna stare attenti, più si diventa grandi e più si accumula, a volte basta poco, quindi quello che posso evitare lo evito, prima la pasta ma a pranzo e a cena, adesso magari la mangio un bel piattone a pranzo, magari a cena un bel secondo, un'insalata, una fettina, quello che è. Prima invece qua che mi cacci la pasta, soltanto bisogna stare attenti alla glicemia, a questi valori qua, quando diventi grande salgono un po' più facilmente, dai. Quindi diamoci un freno, adesso che siamo in tempo. Beh certo, non è male fare un pochino di attenzione, certo che sì. Beh, a pranzo io la pasta la mangiavo quasi tutti i giorni, qualche volta lì, quando ne fai pasta e mangiamo direttamente il secondo, poi magari lei ti fa il secondo e però c'è anche il terzo, che diventa sempre un primo, un secondo e così via. Una frutta, lo so, in questo periodo io mangio o una mela golden, oppure che so io un cacomela, che sono giganteschi, pesano 1 chilo l'uno, anche quello ha molte calorie, però cosa vuoi fare, d'altronde la frutta bisogna anche mangiarla. Però sono buoni i cacchimela, mia moglie gli dà la testa. Sì, io non mangio, purtroppo non mangio molta frutta. E poi a volte abbiamo disponibilità in campagna, roba così. A volte ce l'hai e non ne approfitti. Purtroppo siamo fatti così. Vedi, un mio difetto è infatti che bevo poca acqua. Anche d'estate, in estate massimo ne posso bere una bottiglia in tutto il giorno, però, anzi dalla mattina alla notte addirittura. No, non lo so, non me ne viene proprio di sete, assolutamente. Alle volte la bevo proprio perché la voglio bene, per il fisico più che altro. Però in realtà io bevo poca acqua, la verità, questo perlomeno in inverno. In estate può anche andare una bottiglia da un litro e mezzo, bevo sempre acqua panna, acqua minerale praticamente, no? Per cui, però i medici ti consigliano che devi prendere almeno 2 litri, ma una bottiglia d'acqua panna è 1,5 litri, per cui e non sempre ce la faccio a bere in una giornata. E purtroppo anch'io sono come te, non sento la sete. Come dici tu, a volte bevo perché so che devo bere. Io soffro anche di calcoli, dovrei berne minimo 2 litri al giorno. Invece me ne ricordo dopo che sto male, magari ho passato qualche brutta colica, allora mi ricordo di bere, poi piano piano mi dimentico. Tipo oggi stamattina al lavoro non ho bevuto nulla, quasi nulla. Eppure sbagliamo. Così si dice, perlomeno così dicono i medici. A me me lo dicono sempre di bere. Bevo quello che ho voglia, non è che mi posso affogare quello con l'acqua, no, caspita. Se non sento la necessità, non posso dire, tanto dicendo, alle volte bevo proprio per questo scrupolo qua, ma niente di più, ma non perché effettivamente ho sete o meno, no, questo no. E questo, quando ti ho detto, nemmeno l'estate, anche l'estate, in un'intera giornata, e magari la notte vado a letto, che so io, alle 11:30, anche mezzanotte, e fino a quell'ora magari ne posso aver bevuto, se non massimo, una bottiglia. Però devi considerare quante ore sono passate, dalla mattina presto, fino alla notte. Ciao Giulio. Sì, è così. Avanti. Ah, mi ascoltate anche a Sassari. Buonasera. Certo, benissimo anche. Bene, bene, dai. Ciao Giulio, sono sotto casa tua, apri la finestra e buttami un bicchiere di acqua. No, ti bagni, no, ti bagni, ciao. vuol dire sei in transito qui in zona? Va bene. Ma sei venuto a prenderti un po' di freddo dalle mie parti? No Giulio, devo andare a Ottavo, dai. Devo rilasciare questo mezzo che c'era una piccola infiltrazione, così me la controllano e siamo a posto. Comunque, saluto a tutti, non so neanche chi c'è, ho acceso e niente. Ho sentito a Giulio e ho preso il mic. Sì, non c'è in camper? Sì. Bene, capito, ne stai approfittando del tempo per vedere le infiltrazioni, le stai portando così. E allora, così è. L'ho provato, ho visto che c'era qualcosa che non andava, prima che peggiorasse, è meglio ripararlo. Certo, adesso ti sei un po' abbassato di segnale, dove sei? Diciamo che sono quasi vicino al TAV. Ma sei un po' sceso di livello? È probabile. No, però arrivi bene, non ho problemi. Avanti Giulio. Ok, già si fa sentire bene dappertutto, anche quando va lontano, perlomeno quando va lontano è sempre a un tiro di schioppo da dove sono io, per così dire, no? Perché io lo sento anche in lontananza, essendo in questa posizione, per cui non c'è problema. Lui quando va verso il mare, ad esempio, non ho problema di ascoltarlo per svariati chilometri. Vero Tino? Allora, già abbiamo provato, dai. Poi come rientri? Non hai apparato proprio? Insomma, stai andando a aggiustarsi, scommetto, lo sportello, così? No, Giulio, è un coso, una... come si chiama? Il turbo vente che entra appena di acqua, ma è meglio ripararlo, dai. Ok, vabbè, io di quei lavori che ho fatto per 40 anni, li ho fatto sulle roulotte, sui camperi, eccetera, eccetera. Sapete quanto ne ho riparato e quanto ne ho fatto, anche arredamenti interni completi, oppure fiancate intere, perché magari erano state incidentate, dunque, di ogni genere, ma non solamente sulle roulotte, sui camper, ma anche sulle barche, soprattutto sulle barche, che lavoravo per Edio Molusso, o meglio lui mi faceva fare dei lavori, non è che lavoravo per lui, ero io che facevo i lavori a lui, con l'officina Molusso, quella che c'è su, vicino al quadrato. Vai Franco. Facevi anche pavimentazione per le barche, tipo in tech, quei materiali lì? Giulio, io ho lavorato, vabbè, ciao Fra, scusami, che ho ripreso il mic, con il fratello, con ma aiutami, Gabinuccio. Gabinuccio, chiedigli se mi conosce. Sì, adesso non so se ce l'ha ancora l'ufficino Gabinuccio, faccio un poco di sì, che dalle mie parti più o meno, non so come si chiama quella zona, sempre sulla strada per Platamona, all'interno, lì, non mi ricordo che zona si chiama. Gabinuccio, vabbè, prima era con fratello, certo, era, non solo fratello, c'era anche un cognato, c'era, dunque poi sono, diciamo, divisi, vabbè, Gabinuccio era dipendente, di Elio, per cui non è che sono divisi, nel senso, è lui che se n'è andato per lavorare proprio, mentre il cognato è finito addirittura a Palau, è finito, va bene, avanti, Franco. Capo, sei arrivato te? Diciamo che sono qua dove c'era la vecchia Sanac adesso, dai, ma solo un tiro di schioppo, dai. La radio con me, sempre a posto? Qui si è acceso parecchio, qui adesso c'è un segnale di 1-2, poi di questi sei sempre in movimento comunque. Sì. Vabbè, non so se è staccato, adesso non mi metto a controllare che sto guidando. Già va bene lo stesso. Giulio, mi ascolti sempre bene? A voglia, 9-5 è la radio perfetta. Va benissimo. Vabbè, sei sulla discesa della Samac lì. Va bene, sì, non c'è problema. Va bene. No, sono io che per quella parte sono un po' cieco, perché praticamente l'antenna è dalla parte opposta del palazzo, quindi non vedo la zona di Porto Torres. Avanti ancora, se mi hai ascoltato ti. Sì, guarda, credimi, ti ascolto solo di radio, però di segnale niente, però va bene, ti ho sentito. Dico, sei ancora in movimento? No, adesso sono fermo che sono a semaforo. Bene, dai. Arrivi, avanti Giulio. Ok, adesso mi ha fatto venire in mente una volta alla stanza del motociclista, è passato col rosso, è passato, c'era il vigile, l'ha fischiato, si è fermato, era con una moto questa, con una lambretta mi sembra che era, se ricordo bene, ha detto cosa c'è? Lei è in contravenzione, non si è accorto che è passato col rosso. No, siccome ho mangiato pasta asciutta oggi ho visto il rosso, così ha risposto al vigile fra. E poi come è andata a finire? Il vigile ha risposto, vabbè, invece io ho mangiato insalata e ho visto verde, dunque mi ha fatto il libretto. Insomma, la multa l'ha messa, dai. Invece così era passato col rosso questo, è piaciuta sempre a fare anche lo spiritoso. Vai Tino. Dai, saluto Giulio, sono arrivato io, devo mollare, dai. Ok, ciao Tino, ci sentiamo allora, dai. Alle prossime, avanti Franco, per salutare a Tino, dai. Dai, ciao Tino, buon lavoretto lì, buon tutto. Avanti di giù. Ok, lui è arrivato, per cui siamo rimasti noi due, va bene, dai. Sì, è così, e lui faceva il spiritoso, dice, ho mangiato pasta asciutta, ho visto il rosso, e io ho mangiato il salato, ho visto verde, ma te che ti prendo, così almeno impari. Non conviene mai fare le sboroni, come si dice, intanto questi hanno sempre col della parte del manico. Ne trovi a volte qualcuno un po', come si dice, un po' più magnanime, e a volte capisci la situazione, una distrazione, qualcosa, ma se trovi il deficiente che lui non c'è niente da fare, il verbale lo manda avanti tranquillamente, senza nessun ritegno. Vorrei vedere uno che si presenta così a fare lo strapotente, io posso capire, hai sbagliato, se sei distratto, sei passato, non posso, sì, lo dici, sì, non me ne sono accorto, no? Ero distratto e basta, ma non è che uno può fare il buffone così, al video normale, ma vai, ma vogliamo scherzare. E questo mi ricorda, questa chi era? Quel tipo basso che una volta a Sassa lo chiamavano Paperino, lo chiamavano, questo vigile, era un tipo un vigile basso che solitamente faceva servizio lì in via Pascoli. Boh, mi ricorda qualcosa, ha detto Paperino, ma fisicamente non me lo ricordo. Forse qualcuno me ne ha già parlato, però non mi dice niente questo qua. non mi ricordo, io quello dei punti, ormai non c'è più e basta. Quello una volta mi ha fatto un bel verbale, a me sembrava un rotolo di carta igienica. Addirittura, si vede che era bello lungo. Trovava qualcun altro un pochino a testa sua, così se avrebbe detto adesso, siccome questo qui è simile a un rotolo di carta igienica, so dove usarlo. Però poi alla fine, quando mi ha fatto tutto questo verbale qua, ha detto: se poi vuoi che te la tolgano questa multa, vai. All'epoca c'era un politico, adesso non faccio nomi, e poi sono andato oltretutto e me l'ha tolta la multa. Era invece un voto di scambio. E vabbè, si imbarazzavano. Comunque succede tante volte e continuerà a succedere. Fatti leggere, continueranno a succedere, non ci sono dubbi, però tanto l'Italia è messa tutta in questa situazione. Ma visto quei sei neri che li hanno trovati, o sette che erano trovati sotto il fondo di un camion Urbia, che erano ben sistemati, alloggiati, già dentro la nave il camion era, e allora qualche altro passeggero li ha visti, ha fatto il video e ha avvisato la polizia e gli hanno trovato che questi erano scappati, non so da dove, di Urbia, e si erano rifugiati sotto un camion. Probabilmente, dico io, questo è quello che penso io, con l'aiuto di qualche camionista deficiente che magari ci ha preso anche la tangente. E quante cose succedono? Gente che si nasconde sotto. Dove che sono stati io da poco? Quando sono arrivato dalla Spagna. Ma proprio controlli scarsissimi. Se uno avesse voluto lì, anche dentro i gavoni dei pullman, lì ci potevano stare centinaia di persone nascoste, perché non ci hanno controllato, assolutamente, neanche i bagagli, niente. Ci hanno imbarcato. Invece all'andata qua, a Porto Torre ci hanno controllato, viceversa. No? Infatti mi ha parlato anche la televisione, anche quel governatore della Campania, quel di Lucca, ieri ne ha parlato, e in un certo senso ha criticato anche Solina, l'ha criticato dicendo che non si interessava minimamente di Sassari, che lui pensava solo a Cagliari, frasi del genere, una cosa del genere, no? Insomma, l'ha considerato un incapace, in poche parole. Lei non è l'unico a considerarlo incapace. E all'ingrasso lì, la sta combinando per la Sardegna, niente, fanno entrare cani e porci e poi tocca a noi subire le conseguenze con chiusure totali o parziali delle nostre attività e cose varie, dai, purtroppo. Sì, ma il bello è questo, tornando al discorso di questi neri, che pur, perché se li chiami negri si offendono, dicono che è oltraggio alla gente, invece secondo me non è vero, la parola giusta è nero, veramente. E stavo dicendo, è stato scoperto tramite un bambino piccolino, figlio di uno di questi, perché a un certo momento questo bambino si vede che era rimasto solo, l'ha abbandonato il padre, non lo so, e ha indicato in qualche maniera, dice babbo, dice bus, babbo bus, papi anzi, papi bus Roma, papi bus Roma, e lì a Urbia stesso, no? E allora la polizia ha sospettato, hanno indagato e hanno trovato che il padre di questo bambino e altri erano collocati sotto un camion, ben sistemati, legati, in modo da non cadere durante il viaggio, così almeno la nave partiva e se ne andavano a Roma, capisci come stavano tentando di fare. Allora, gratis pure, grandissimi, gratuiti pure. Sì, mi ricordo qualcuno qualche anno fa, forse qualche decennio fa, si era nascosto nel carrello dell'aereo e che poi l'hanno trovato un cubetto di ghiaccio. Una volta che sale a 10.000 metri la temperatura fuori, credo che sia 40-50 sotto zero, bisogna, adesso non vorrei dire fesserie. Lo credo, e soprattutto poi a quella velocità. Lo credo, quello ti dice, è proprio un pacco di ghiaccio di vento, te lo credo, certo che ne hanno di coraggio questa gente, e non mi vengono a dire che siano coraggiosi per la disperazione, sono coraggiosi perché sono state sempre delle persone che non hanno avuto mai voglia di fare niente. Se rimanessero nella loro terra e lavorassero anziché che stare lì a rompere le scatole andando in giro per il mondo e a occupare le nazioni degli altri così clandestinamente, forse avrebbero fatto meglio. Naturalmente poi sono agevolati dal sistema italiano, che è un sistema da imbecilli, che accettano cani e pulci, accettano qua alle spese degli italiani, con le spese degli italiani, non è possibile. E allora, siamo alla casa del buon Gesù questa Italia. Anche da poco, fate avanti, una nave tedesca dell'OMG ha recuperato clandestini. Dove li ha portati? In Italia. Ha portati in Germania, visto che era la nave bandiera tedesca, no? Li ha portati in Italia. E tutte queste navi che arrivano da fuori con i clandestini sono praticamente navi straniere, no? Spagnolo, prendiamo ad esempio il processo che sta subendo Salvini, non era una nave spagnola quella che l'aveva portata in Italia, quei 140 persone o quanti erano. Poi mi vengono a dire che erano trattati male, invece non è vero, perché l'Italia gli aveva dato anche l'assistenza. Certo, non puoi far sbarcare le persone così, non di punto in bianco, perché erano, dice, 10-12 giorni, 15 giorni sulla nave, secondo loro era sequestro di persona. Ma quello stava difendendo le cose italiane, stava difendendo, perché era il suo compito di fare quello, non come quella namorgese che ci usa, che fa entrare cani e pulci e non gliene frega niente di nessuno. Ce l'abbiamo visto che cosa sta succedendo. Purtroppo questa legge l'abbiamo firmata anche noi italiani, ma ti parlo di 30-40 anni fa, quando c'era il flusso che arrivava, diciamo, dall'est, e che a noi non ci toccava all'epoca, o perlomeno ci toccava molto marginalmente. E adesso quella legge ci si torce contro, perché dobbiamo dare una mano anche a questi qua, dai, che stanno arrivando nel Mediterraneo. Sì, ma io capisco che questa gente, se si mettono dentro queste carrette del mare, che a un certo momento si trovano in difficoltà e li devi salvare, però devi prendere e rimpatriare di nuovo, perché tu non ti puoi accollare tutta l'Africa qua in Italia. È già una nazione povera l'Italia, ragazzi, senza lavoro, senza niente, con un sacco di gente che fa i salti mortali per campare, addirittura gente che va nei cassonetti a cercarsi da mangiare, e tu mi accogli tutte queste persone e poi tu a me mi privi della mia libertà e però obblighi gli italiani a prendere i rimpassi, e questi entrano e escono quando il padre piace, senza nessuna cosa. Non vogliono essere vaccinati perché la loro religione non glielo permette. Insomma, un sacco di storie, hanno tante di quelle agevolazioni, e non pensare poi che costano 1.300-1.400 euro a persona, costano al mese, quando ci sono pensionati in Italia che prendono 350-400 euro al mese di pensione. Ma ti sembra giusto? No, questi sono tutelati più di noi, porca miseria. Poi ormai con queste parabole ricevono anche questi paesi nordafricani, vedono cosa regala l'Italia a questi extracomunitari, e quindi logico che vengono a fiuti. È logico, quindi ti danno questo reddito gratis, senza fare nulla. Bella pubblicità che ci facciamo. Sì, bella, bella, bella. Proprio una bella pubblicità. Lo stesso discorso vale anche per il Papa, dice che bisogna avere un po' l'umanità. Certo che bisogna avere l'umanità, e lui perché non se ne porta un po' nel suo Stato, visto e considerato che dicono che è uno Stato straniero, che è il Vaticano, allora, perché non se ne porta un po' lui anche? Invece no, è una vergogna, per carità, e la povera gente, i lavoratori qua, perché intanto chi dà da mangiare a questa gente non sono i capitalisti, sono i lavoratori stessi, italiani, quelli che pagano le tasse col sudore della fronte, e mantengono anche questa gente qua, e no, noi qua, cosa vuoi che ti dica? E allora, vanno sempre a prendere dalla, dal dipendente, dal pensionato, che è un salvadanaio, come si dice, è un bancomat sempre pronto. Mica vanno dai grandi evasori a prendere soldi. Lui, quelli evadevano prima e continuano a evadere. Le grosse multinazionali, cose varie. Già le cercano noi, adesso vogliono togliere quelle 100 euro che c'erano in busta paga, quelle le vogliono togliere e darle sotto forma di detrazioni, ma vedrà che alla fine ci rimetteremo anche a sacco e sale, come si dice. Sì, ma è così, non c'è niente da fare. È una cosa vergognosa veramente, guarda. Anche quest'anno della tredicesima tenendo tutto qualcosina, che non solo poi su quale diritto loro si avvalgono di toglierti, magari vabbè sono 25 euro quello che, ma per quale motivo li devi togliere ai pensionati, non lo so io, perlomeno ai pensionati di una certa categoria, di una certa cifra, non lo so. Io sono nauseato da questi politici che abbiamo, veramente, guarda, non lo dovrei dire, ma sono veramente nauseato, come milioni e milioni di italiani che siamo tutti nauseati da questa gente. Un attimo, devo scendere giù a prendere un pacco. Ok, d'accordo. Della bassissima carica virale, il test della madre e della suocera del paziente zero isolato con la famiglia. Eccomi. Sei tornato. C'era una portante 9 più 5 fissa da quando ti sei allontanato fino a 20 secondi fa. Ma col bip, perché sentivo un bip da lontano. Non lo so chi era, qualcuno che o si è addormentato con la portante o stava magari accordando qualcosa, non lo so. Vediamo un po', ricordo io. Allora, si prova a accordare con lo strumento dell'apparato, se migliora qualcosa. Così, meglio o peggio? Che ti faccio pagare lo smitter mi. Davvero? Va bene, Natalì. Ciao Fra. Come va? Sono il compagno di Giulio. Già ho sentito. Ciao Giulio, buonasera. Anche a te, non so chi altri ci sia che non ho fatto ascolto. L'ho acceso solo adesso. No, va bene, dice che c'era una portante, non so se fosse la tua che stavi accordando, se no erano noi due, perché ho mollato un po' perché c'era corriere giù, tutto qua, avanti Giulio. Giulio, sì, chi è Franco? Sì, ciao Natalino. Sì, c'era una portante fissa, come quando qualcuno per errore magari la schiaccia o qualcosa del genere, ma ripeto, è durata almeno tutto il tempo che ti hai impiegato tu, Franco, da quando hai mollato fin quando 20 millisecondi, anche di meno forse, prima che te lo riprendessi. E tutto quel tempo c'era sempre la portante fissa. Infatti ho pensato, ma non sarà Franco che sta aprendo il pacco e gli è caduto qualcosa sopra il microfono e lo tiene schiacciato. Invece no, era tutto un altro segnale, il tuo era più forte. Avanti Franco, di sorso. Ehi, Giulio, scusa, ma mi sono accorto dopo che era la mia. Siccome avevo tolto il K, ho messo l'altra radio, ho messo. E non mi sono accorto che ho sbagliato capo e me ne è andata importante. E l'ho tolta subito comunque. Sì, ma ho immaginato qualcuno che ha fatto qualche errore. 9 più 5 era il segnale inferiore a quello di Franco di Sassari, perché Franco adesso è 9-12, si può immaginare, per cui vabbè, comunque non ho capito che era un errore, perché non poteva essere altrimenti. Avanti Franco Sassari. Capo, intanto saluto anche Franco. Ascolta, quando devi venire a Sassari, Fra? Per quella questione. Ce l'ho in macchina. bene, se vuoi anche stasera, se vuoi, se devi salire, la porti via. Me le dici un po', va. Ecco, facciamo il decino dove comprarci, mi faccio una scappata. C'hai anche roba in macchina, cioè l'apparecchio in macchina, ce l'hai? No, la radio non ce l'ho. Vabbè, vediamo un po'. Il numero di telefono ce l'hai tu di Franco, no? Oh, Giulio? Sì, sì che ce l'ho, certo che ce l'ho. E chiedi se me lo puoi passare, così lo chiamo io, dai. Sì, sì, passaglielo giù. Va bene, d'accordo. Adesso te lo passo, Franco. Ti passo il numero, certo. Va bene, dai, non c'è problema. No, se no mi stavo dicendo, quando siete lì per incontrare Sassari potete anche parlare col PMR. Franco, ce l'ha il PMR, se mettiamo il portatile in tasca, tu ce l'hai lo stesso e quando eravate in zona vi sentivate sicuramente. Comunque non è un problema, adesso ti passo il numero di Franco di Sorso a Franco di Sassari. Ehi capa, vado a prendere il telefono, avanti Natali. Franco, come ti sta arrivando a te? C'è un segnale di 8. Ma la radio mi interessa. La radio mi interessa come sta uscendo, capito? La radio è bella, è 5, è buona. Sì, sì, come radio ti ascolto sempre lo stesso, è buonissima la radio. Segnale è 8. Va bene. Anzi, oggi mi arrivi di più. Cosa ti volevo dire? Purtroppo non posso parlare molto perché ho l'antenna carica di stazionari, capito? Devo fare passare corsi. Però ho notato una cosa, che c'è il mancamento del radio. O sei tu che schiacci male il microfono? Devo essere io sicuramente che schiaccio male, capito? Perché mi sgancia, è duro mi questo microfono. Franco, ci sei? Sì, sì, ci sono. Anche io ho un po' di QRM, sicuramente sono in funzione le pompe di calore. Però riesco ancora a ascoltarti. Dimmi. Facciamo che diamo un appuntamento direttamente in qualche posto. Ci portiamo al PMR e parliamo quando arriviamo vicino facendo il PMR. Ho capito, PMR. Oh, adesso mi dai il tuo numero, cosa? Ti chiamo per telefono. Sì, sì, e ci mettiamo d'accordo dove incontrarci. Più o meno dove lavorava Augusto, mi. Lo sai dove parcheggiava la macchina? Nel deposito nostro. Sì, dove ci sono gli uffici. Come? Dove ci sono tutti gli uffici anche. Però non giù, la parte superiore, praticamente prima di quel cancello dell'azienda, ce n'è un altro, sempre della stessa tipologia, dai. E rimangono i parcheggi superiori, sopra la direzione. Ho capito dove sono. Sì, sì, già conosco la zona, sono lavorato anch'io con voi. Un anno, però già ho scoperto tutto. Praticamente la mia macchina è lì dentro. Va bene, allora, quando arrivo lì ti chiamo col PMR, ti chiamo, ma tu lavorando sei adesso? No, negativo, ho già dato stamattina. Va bene, poi quando mi chiami ci mettiamo d'accordo. Faccio come mi passa il numero ti chiamo, dai. Vabbè Giulio. Sì, sono sceso a prendere il telefono, adesso te lo passo, adesso te lo mando. Insomma, ti abbiamo fatto lavorare, dai. No, figurati, non è un problema quello, io ce l'avevo giù, ce l'avevo, capito? E anche mia era in carica. Sta lì, ti sento una voce strana però, cosa c'hai, mal di gola? No, non ho mal di gola. No, è strana, ho un altro microfono, tu? Può darsi che sia il microfono, ma come sto uscendo di radio? No, benissimo, niente da dire. La voce un po' mi sembra più nasina, sembra che sia un po' raffreddata, una cosa del genere. Giulio, come ti sta arrivando a te lì? Sta arrivando bene in radio, colposa, una radio bella colposa, fondata lì. Grazie, dai. Il segnale è variata, sto scendo bassino e... c'è un po' di stazionarie. 9:10 qua. Qua è oltre 9:30. Ma siamo vicini, fra. Ecco, dormite comunque, no, non è professionale, quindi prendilo con le dovute cautele. E infatti. Vediamo un po' se ascolto Franco. Capo, ragazzi, però come mai sto QRM alto? Io? C'è alto per, nel senso che non riesco a volte a tirarti bene fuori. O sta piovendo, no? Può essere che stia piovendo in zona? Ma qua non lo so, sta tutto chiuso, non lo vedo. Ma macchine sì, perché non lo so sul QRM. Non molto, ripeto, è un po' altino per me, perché in genere non ne ho mai. In genere quando ho QRM vuol dire che c'è qualche roba, qualche pompa di calore accesa. E tu Natalino, tiri fuori bene? Ma sì, no, già, ma già lo tiro fuori. Io al limite proprio. Ma, se non sbaglio, altre volte mi sei arrivato più forte. Puoi aumentare qualcosa, Fra? Ma veramente ancora sta saldando, vera fredda la radio, perché l'ho appena accesa, capito? E allora magari è quello, ho capito, l'ho appena accesa, forse sta tirando qualcosina in meno. Ma mano che scalda poi magari passi meglio, dai. Sì, sì, sì, sì. Man mano che scalda poi va bene. Perché sto uscendo con 20 watt modulati, là. E allora mai sarà quello, un po' di QRM, un po' di segnale basso e un po' di problemi io, dai. E un po', avanti, Giulio si può riprendere, sennò vediamo un po', vediamo se mi è arrivato il messaggio. Perché non lo voglio tirare a freddo, capito? Delle volte che c'è qualcosa. Con che segnale ti arriva Franco a te, Giulio? Va Giulio, Natali. Non ho guardato. Già lo, quando parla lo guardo. Capo, guarda a vedere la tariffa. Dovrebbe essere, vabbè, più o meno come mi arrivi tu da. Te l'ho mandato Franco. Capo, grazie. Fra, mi arriva a 7 con i picchi di modulazione a 8. Io non lo so se ne ho picchi di modulazione. C'ho anche l'antenna piena di stazionari. Aspetta che copio il numero. Molto veloce direi. E allora tra quel sorso lì da voi stamattina grandinato. Sì, è anche parecchio. E anche qua dove sono io abbastanza, dai, un bel po'. Tu pensa, c'era la strada che era un pochino simpatica, diciamo, dai. Siccome qui avevano fatto da poco, qualche mese fa, avevano fatto gli scavi per passare la fibra, no? Sicché era rimasto tutta la fila dell'asfalto nero, nuovo, rispetto a quello vecchio che è più imbiancato, diciamo, dalle polvere, eccetera. Lì ha attecchito bene, mentre nel resto dell'asfalto, questo è quello vecchio, appena che ha piovuto subito si è sciolto, mentre invece quello dove c'era l'asfalto nuovo ha attecchito un bel po', ha tardato a sciogliersi, dai. Capo, sì, ma è così da tutte le parti, qua non attacca, siamo troppo vicini al mare. Lo so, lì di meno, certo che sì. Eia. Comunque questo microfono è come quello che usa Gianfranco. Vabbè, no, non lo so che microfono usa Gianfranco, vabbè. Va bene, comunque va bene Natali, non c'è problema, va benissimo. È un bel microfono. E infatti. E anche l'apparecchio non è da meno. Mi ho ordinato l'antenna stamattina, mi hanno caricato la carta e subito l'ho ordinata da un'altra parte. Ho capito, hai fatto bene. La Game Master? Sì, è per forza. Altre antenne non le posso mettere qua. Infatti, già va bene quella. C'è un'antenna leggera, facile da piazzare e soprattutto non devi accordare niente. La piazzi, la allunghi e la attacchi al palo e stai andando. Senza bisogno di fare accordature, niente, non se ne fanno accordature in quell'antenna. Perché non ti serve nemmeno l'osmo, per poche parole, perché intanto è già accordata dalla casa, dal Sirio. Va bene, vediamo un po' se riprende Franco di Sassari. Sì, ci siamo già sentiti, grazie ancora Giulio. Adesso mi salvo il numero, riprende giù, grazie ancora. Giulio, ci sentiamo, vai, a più tardi. Ok, d'accordo, a più tardi ci sentiamo. Buona passeggiata. Figurati, Franco di Santa, ringraziamenti, non ti preoccupare. Ci mancherebbe altro. È così, è così. Vabbè, io stamattina non sono uscito, perché per il semplice motivo che stava nevicando, cioè nevicando, che stava grandinando, per cui, e poi c'era freddo, e poi dovevo andare, non devo andare da nessuna parte. Ecco, solo esclusivamente quando devo andare a prendermi la pensione. Ci vado mercoledì, se ne ho voglia, se no andrò molto più tardi. Verso, che so io, 10, 12, anziché l'1. Va bene così, avanti Natalia. Ehi, mi ero spostato a aprire la 50 che stava portando il cane, che sennò poverino non faceva le sue cose. Buonasera a tutti. 48 stai usando, Natalia? Come? Il 48 stai usando. Come il 48? 25, 48, quello di sera. Ehi, quello omologato sto usando. Ehi, quello 25. Io ho capito, bella modulazione. Finalmente sei riuscito a fare un bel abbinamento con quel microfono. Cappa. E che è mandato laterale? Ciao Cla. Ciao, buonasera a tutti. Da te a cos'è il grandinato? Qua c'è ancora neve, figurati, a trovare il grandine. Buonasera, permesso? Stai facendo male, che? Ehi, ciao, Marco, Marco Babbo Natale. Un attimo, possiamo fare... Cla, puoi passare un secondo sul 20 che bisogna ancora il capo? Sì, va bene. Ciao, buonasera a tutti, ci sentiamo fra poco. Beh, stai innescando un po' di alternata, un po' di tutto c'hai.